siamo convinti che questi delinquenti che hanno massacrato di botte un tassista non usciranno tra qualche settimana. Questo è il problema che poi induce i milanesi o i palermitani, i napoletani o torinesi a dire: ma chi me la fa fare? Ieri io ho fatto un appello a tutti coloro che domenica pomeriggio hanno visto dai loro balconi alle 3 questa raccapricciante scena. Milanesi non sono mai stati e non lo saranno mai omertosi, perché Milano è una città in cui sono stati dati migliaia di esempi da parte dei milanesi che quando si tratta di rispettare le regole si è in prima fila. Però io metto un però, perché poi tutti i giorni la cronaca cosa registra? Quello che vediamo soprattutto non al nord, per carità, non a Milano, ma quegli esempi, quei fatti che accadono a testimoni in processi importanti contro l'Andrangheta, contro la mafia o contro la Camorra, lasciati soli, abbandonati, non depongono a favore, soprattutto in quartieri di Milano dove un po' di questi balordi sono un po' arroganti, come si è visto, si fanno forti del fatto che magari da quelle parti non passano molti poliziotti e quindi si fanno la loro arroganza in questi grandi casseggiati popolari, diventa un po' insomma il giorno per giorno, per cui dobbiamo stare attenti, lo dico qui a me stesso che sono ovviamente amministratore, parlamentare, ma lo dico soprattutto alle autorità, ai magistrati: attenzione, quando si abbandona un testimone e lo si lascia solo, quello è un esempio brutto per tutti gli italiani, non solo per il sud, ma anche per chi al nord vive in situazioni di difficoltà, in situazioni in cui magari la malavita organizzata, in questo caso non è malavita organizzata, sono balordi, si fanno forti di queste regole.